dei 3000 siepi, vediamo che l'andatura è subito molto molto veloce e vediamo che va a prendere la testa. Vediamo cadere. Ma si è rimesso in gara? No, è ancora là. È ancora a terra. Ma si è rimesso in gara? No, è ancora là. È ancora a terra. Vediamo la disperazione. Più agili nel superamento delle siepi, delle barriere, i due inseguitori. Seguitori. Con questa vittoria sorprendente. Ed ora vediamo la gioia incontenibile. Incontenibile. Buonasera, eccoci ancora sulle frequenze di Radio Wombat o sullo streaming. E dalla regia mi fanno dei segni strani che non capisco. Gino, dimmi. No, devi parlare davanti al microfono, è importante, sennò poi sembra che te non parli, però in realtà la Gino parla tantissimo, solo non si sente, perché va a parlare dall'altra stanza. Mi tratta sempre come una tirocinante. È stagista. Stagista. Sei la stagista non pagata. Sono la stagista. Siamo Gino e Gine, la puntata è 3000 siepi, potete ascoltarci sul sito wombat.noblogs.org, seguirci su Twitter come Radio Wombat Fi o addirittura su Facebook Radio Wombat Firenze o scriverci alla mail posta@wombat.insiberia.net e niente, buonasera e cominciamo la puntata. Cominciamo con cosa abbiamo oggi in scaletta? Tutto risonanze storiche, mi pare. Eh sì, saremo sì. Noiosissimi, sempre questa cosa della storia. E un po' di playlist for runners, ma almeno sì, no? Sì, quando non ce la fate più, cioè quando abbiamo deciso che vi abbiamo stremato completamente, poi facciamo questa finta cosa che vi rendiamo allegri con le nostre playlist per runners. Poi non so quanti di voi corrono, abbiamo scoperto pochi, poi fa anche freddo. Però noi comunque continuiamo lo stesso. Va bene. E oggi comincio io, questa è la novità. E l'argomento di cui parliamo oggi, sporchi, brutti e sportivi, la storia degli Ixos. E vai, pezzo. Yeah. A Radio Wombat, e abbiamo detto insomma che vi parliamo degli Ixos oggi e abbiamo ascoltato il pezzo Death or Glory dei Clash, ecco che mi ero dimenticata. C'è anche una bellissima cover dei Social Distortion che ascolteremo la prossima volta. No, volevo fare solo sfoggio di cultura musicale. Ah, complimenti. Grazie. Allora, chi erano gli Ixos? Gli Ixos in Italia rappresentarono un fenomeno sportivo che nasce verso il finire del XX secolo e si protrae fino ai primi del Novecento. Il nome Ixos è un nome che deriva dalle popolazioni asiatiche che penetrarono in Egitto durante il Medio Regno, quindi verso la fine, insomma, sul finire. Gino ha una faccia incredibile. No, sono stupito, continuo, non guardare me, che vuoi da me? Cerca di distrarmi sempre, fammi fare brutte figure ed essere sempre il migliore. Parla fissando Doraemon. Va bene. Chi erano questi Ixos? Questi Ixos erano degli esponenti del sottoproletariato urbano e cosa facevano? Si riunivano in sordide cantine, a me piace molto la parola sordido, quindi la userò spesso, e si esercitavano nella lotta o si ritrovavano lungo le strade dei quartieri popolari di Torino, Milano e Genova e si dedicavano al podismo. Venivano descritti attraverso le lettere mandate e inviate alla Gazzetta dello Sport come malvestiti, sporchi, ineducati, insomma dei barbari pronti a tutto per vincere. E sostanzialmente perché questi Ixos gareggiavano. Erano sicuramente possenti e forti, anche perché abituati a fare lavori insomma, di manovalanza, lavori pesanti, e sostanzialmente erano molto poveri. Quindi gareggiavano per un riscatto sociale ed economico. E poiché le gare richiamavano migliaia di spettatori, e garantivano così un grosso giro di affari ai broker, poiché si poteva puntare e scommettere sui risultati delle gare. Gli Ixos si esibivano in luoghi aperti, osterie, in cambio di un piccolo ingaggio, oppure si cimentavano in lunghe gare podistiche, come ad esempio la maratona, e per vincere il premio messo in palio. E quali erano questi premi? Beh, i premi erano un pollo, un fiasco di vino, un bracciale o una piccola somma di denaro, niente di che, insomma. E i broker erano coloro che mettevano a disposizione il premio per alimentare il giro di scommesse. E ora parte un pezzo dei Beastie Boys, Fight for Your Right, che è un pezzo molto sordido. Ancora su Radio Wombat e continuiamo a parlare degli Ixos. Allora, gli Ixos si organizzarono comunque in microscopiche società sportive che avevano dei nomi originali e bizzarri tante volte. E, stiamo parlando sempre di Milano, Torino e Genova. Mi pare che c'è stato qualcosa, un po' di movimento anche intorno a Roma, ma non ne sono sicura, quindi teniamo per buone Milano, Torino e Genova. E andiamo a vedere a Milano. A Milano le società di cui abbiamo notizia, abbiamo il Pavement de Jazz, che significa il pavimento di ghiaccio, fondata nel 1896. E chiamata così perché il terreno d'inverno gelava e si formava una sottile patina ghiacciata. Nel 1899 cambia nome e diventa il Pavement de Fer. Probabilmente avevano trovato i soldi per pavimentare e quindi l'hanno chiamata così. Sempre a Milano troviamo la società Compagnia dei Bei, nome dato in risposta agli articoli della Gazzetta dello Sport che appunto li definiva sporchi e brutti. Sempre a Milano troviamo la società Cantina po Sport Porta Vittoria, fondata nel 1900, la società podistica del Cantun. E la società Lo Sport Leggera, fondata nel 1901. Lo Sport Leggera era una società podistica dedicata alla Ligera, che era la piccola malavita milanese dedita al cabotaggio. Per quanto riguarda Genova, le società erano fondamentalmente gestite dai camalli, che erano i lavoratori del porto. E le società che vi segnaliamo sono Alba Proletaria, una società dedita all'atletica pesante, fondata sempre nei primi del Novecento. E su Genova segnaliamo un episodio nel 1897, un incontro di lotta avvenuto nei pressi del porto. Ed è stato un incontro tra il campione europeo di lotta, Basilio Bartoletti, e il camallo pilota, di cognome faceva pilota, detto anche Brasse Pruibie, ora non so se esattamente si pronuncia così in genovese, che significa braccia proibite. Beh, l'incontro è stato sospeso da Bartoletti. Si è dovuto arrendere perché il camallo braccia proibite lo stava stritolando. Pezzo che mettiamo e di conseguenza è Stringerò di Nada, un pezzo romantico a celebrare due uomini che si scambiano affetto. La luna appesa alla parete, la notte a me mi viene sete. Fammi bere, amore, fammi bere un po' di te. mi fa vedere le stelle, esplodi anche tu insieme a me. Ti troverò quando ti ancora a parlare degli Ixos, e anche questa volta la nostra fonte è il manifesto, e posso garantire che non si trova altro, quindi non so, su certi argomenti è così, l'avevamo già visto la scorsa precedentemente sulle Olimpiadi Popolari, quanto fosse difficile reperire del materiale. Anche sul lottatore Selden Binder c'è quasi niente, effettivamente, a parte l'articolo sul manifesto, sì. E vabbè, noi procediamo col racconto. E sicuramente gli Ixos sono stati l'espressione di un fenomeno sportivo variegato. L'abbiamo visto che avevano dei nomi, davano dei nomi alle società che potevano essere dedicate a Carlo Marx, come alla malavita milanese, e sicuramente sono state oscillazioni politiche che la sinistra non ha saputo intercettare e organizzare, tant'è che la volta scorsa, se vi ricordate, avevamo parlato di un partito socialista antisportivo che quindi in qualche modo remava contro quelle che erano le iniziative sportive. E gli Ixos addirittura nel 1898 parteciparono agli scontri a Milano. Nel 1898 ricordiamo appunto i moti milanesi di protesta nati contro le dure condizioni di vita imposte dalla monarchia. Esplose la rivolta in seguito all'ennesimo aumento del prezzo del pane, passato da 35 centesimi a 60, e viene ricordata quel 7 maggio, se non vado errando, come una data, la data in cui il generale Bava Beccaris cannoneggiò sulla folla. E anche in quell'episodio gli Ixos furono politicamente abbandonati a se stessi e rimasero fino ai primi del Novecento come così, espressione di tentativi ribellistici e spinte anarcoidi che comunque non si organizzarono mai. Abbiamo detto appunto che nei primi del Novecento il movimento degli Ixos scompare, non ne abbiamo più traccia. E che fine fecero? Beh, molti vennero intercettati dai broker che li usarono come fenomeni da baraccone, e quindi gli Ixos si esibivano in circhi, nei caffè, nelle fiere, e questi erano quelli di livello mediocre, mentre i più bravi passarono al professionismo, e questo vuol dire che venivano gestiti da manager sportivi e gettati in quelli che erano i circuiti delle grandi gare. Ricordiamo uno di questi diventato famoso, Enrico Porro, che è stato oro a Londra nel 1908 per la lotta, insomma gareggiando in lotta greco-romana nei pesi leggeri. La storia degli Ixos finisce qui e vi lasciamo con Nina Simone. È difficilissimo. And God, no, I got life. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling. Ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what about God? Why am I alive anyway? Yeah, what about God? Nobody can take away. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. I got my freedom, I've got life. I've got life, and I'm gonna keep it. I've got life, and nobody's gonna take it away. I've got life. Ed era Nina Simone, abbiamo parlato degli Ixos e adesso riprendo il microfono io in un cambio quasi da staffetta dai 400 metri olimpici. Infatti io vi parlerò di nuovo di Olimpiadi, perché ormai stiamo in fissa con l'atletica e con le Olimpiadi. E in particolare diciamo, l'aggancio all'argomento che tratteremo ora me l'ha dato il pezzo di Nina Simone, che inizia proprio con I got no money, I got no shoes, perché io vi parlerò di un episodio in realtà molto, molto famoso, perché ci tengo a essere un po' pop e un po' mainstream, e non queste cose di nicchia. Io voglio il grande pubblico e per raggiungere il grande pubblico, quindi allora uso queste cose più mediaticamente famose. E in particolare vi parlo delle Olimpiadi del 17 ottobre. Cioè delle Olimpiadi del 1968 e nello specifico di una cosa che è accaduta il 17 ottobre, che in realtà è molto molto molto famosa. Cioè sono i due atleti di colore, Tommy Smith e John Carlos, che salutano appunto scalzi in calzini neri e con il guantino nero di cui ora vi spiegherò il significato, diciamo, salutano lo stadio olimpico. Loro avevano gareggiato nei 200 metri piani, avevano rispettivamente vinto il primo e il terzo posto, mentre il secondo era invece andato a Peter Norman, che era un atleta bianco australiano, di cui parleremo anche. E avevano deciso, in realtà la cosa era pianificata, nel senso che non l'avevano esattamente improvvisata, avevano deciso che se degli atleti di colore avessero vinto, in particolare loro hanno vinto, avrebbero fatto questo gesto mediaticamente molto azzeccato, visto che ha valicato i decenni e è stato molto, a livello di immaginario, è stato molto, molto importante. Hanno salutato a pugno chiuso durante l'inno nazionale, non cantando l'inno nazionale, testa bassa, in calzini, con delle spille di un'associazione di atleti che si batteva per i diritti umani. ed era un'associazione politicizzata. Così come erano, diciamo, politicizzate le associazioni che si battevano per i diritti civili in America e in particolare quelle per le persone di colore. Per farvi capire un po' meglio l'episodio, che magari è interessante però già conoscete, volevo fare un piccolissimo excursus storico per calarlo nel contesto di quegli anni, perché diciamo, si apprezza la portata del gesto se si conosce un pochetto pochetto il contesto in cui avviene. Nel 1960, cioè quel decennio lì, in particolare verso la metà degli anni 60, i movimenti per l'emancipazione dei neri in America erano particolarmente attivi. E in particolare erano un po' divisi in diverse anime, e esisteva un'ampia, diciamo, compagine che si batteva per i diritti civili in maniera, diciamo, utilizzando tecniche e strategie non violente, che dopo un po' diciamo, si esaurisce con la morte di Martin Luther King, in realtà con un po' prima, va in crisi un po' prima della morte di Martin Luther King, nel senso che Martin Luther King era un po' questo emblema diciamo, delle lotte, che già un po' di anni prima del suo assassinio, che avviene appunto nel 68, ha conosciuto una prima fase di declino, essenzialmente perché l'altra anima delle proteste, vivendo in un contesto molto violento, in realtà erano i riot, le rivolte urbane, che dal 65 in avanti praticamente contraddistinguono quasi tutte le stati americane, nel senso che questi riot assumono la forma di rivolte, spesso armate, represse nel sangue, e quindi a un certo punto il movimento diciamo, non violento di King entra un po' in crisi, proprio perché non riesce a rappresentare anche la rabbia dei ghetti. Diciamo, in questo contesto si inserisce una strategia nuova che prenderà il nome di Black Power, che in realtà riporta l'attenzione su diciamo, l'autonomia delle persone di colore. E in particolare, proprio 2 anni prima, nel 66, si formano tutta una serie di organizzazioni. In particolare, Black Power è un termine che ha iniziato a usare un'associazione che si chiamava Student Nonviolent Coordinating Committee, e in particolare è stato coniato il termine da uno dei loro, diciamo, uno di questi leader di questa organizzazione, che era Carmichael. Carmichael aveva iniziato a usare questo termine riprendendo un po' le tesi di Malcolm X, che in qualche modo si contrapponevano all'interno del movimento appunto di questa compagine, perché puntavano appunto su un maggiore protagonismo delle persone, e iniziavano a mettere in evidenza una cosa che verrà ripresa poi da un'altra organizzazione che si forma sempre nel 66, che è Black Panther Party, la necessità in parte anche dell'autodifesa, nel senso che di fronte alle violenze dello Stato americano, che erano forti, cioè, le rivolte riprendevano, cioè, prendevano quasi una forma di guerra civile. Oddio, mi suona il cellulare, mi sono dimenticato di spegnere il cellulare. Sentirete un cellulare in sottofondo, è il mio. Non lo spengerò perché ormai è troppo tardi. È il bello della diretta. Sì,

There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Hart, women liberationists, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Tra le estreme difficoltà tecniche di questa sera siamo riusciti a farvi ascoltare questo pezzo. È colpa mia che non l'avevo preparato precedentemente, YouTube come sempre mi ha tradito, sto stronzo. E però volendo potremmo fare finta che il pezzo di silenzio che avete sentito prima, cioè dopo che vi avevo annunciato il pezzo, sia in realtà un altro pezzo famoso dell'epoca che si intitola There's a Riot Going On, di non mi ricordo più bene chi, che però è sostanzialmente un pezzo dove ci sono circa 10 secondi di silenzio e basta, ed era un pezzo dell'epoca, che poi in realtà l'autore nel 97 ha spiegato che diciamo, questo pezzo secondo lui voleva dire che non dovrebbero esserci le rivolte. Però secondo me si è giocata tardi la carta, cioè messa in quel contesto storico, chiamare il pezzo del There's a Riot Going On e poi far sentire 10 secondi di silenzio non è stata interpretata così, e se lo dici poi nel 97, cioè 20 anni dopo, non vale che te la rimangi, ecco. E comunque torniamo al nostro 17 ottobre 1968. Allora, questi atleti salgono sul podio olimpico scalzi, con i calzini neri, con i guanti neri, con le loro spille, e insieme a loro c'è anche un atleta bianco australiano. In realtà lui non è che stava lì a caso, nel senso che era d'accordo con la protesta, non fa il saluto del Black Power perché sarebbe stato tendenzialmente inopportuno, nel senso che il movimento nero alla fine il ruolo che riservava alla gioventù bianca, ciò che gli chiedeva di fare era di sensibilizzare gli altri bianchi sulla questione del razzismo, però ci teneva giustamente molto a che la liberazione che portavano in atto partisse da loro. E per solidarizzare, comunque, Peter Norton portava anche lui la spillina dell'associazione di atleti di cui vi abbiamo detto prima, e in realtà Peter Norton dei tre fu il più sfigato alla fine, nel senso che entrambi furono ostracizzati dal mondo dell'atletica. Però, mentre i primi due, con l'andare del tempo, sono stati poi riabilitati, anche se le loro vite nell'immediato furono messe in grave difficoltà anche a livello personale, nel senso che ricevevano minacce, ricevevano continue pressioni, non riuscirono a fare, diciamo, carriera nel mondo dell'atletica se non a grandissima fatica, e comunque non rivestirono nessun ruolo interessante, cioè furono messi ai margini, e anche dal Comitato Olimpico stesso. Peter Norton gli toccò la stessa identica sorte in Australia, se non che lui non fu mai riabilitato, nel senso che lui continuò il suo percorso politico, fu un sindacalista, la sua vita fu abbastanza travagliata, nel senso che incappò in depressione, alcolismo, e insomma non ebbe una vita semplice. Non rinnegò mai il gesto, anzi disse che per lui fu in qualche modo un onore, oltre che salire sul podio olimpico, ma salire a fare quella cosa nello specifico. E dei tre è anche quello che è morto prima, nel senso che è morto nel 2006, e nel 2006 infatti al suo funerale c'erano i due suoi compagni, cioè Tommy Smith e John Carlos, a portare la bara fuori, insomma, durante il funerale. E la storiella, che non è una storiella, è triste come quasi tutte le cose che vi racconto io, quelle che racconta Gine sono più allegre, d'ora in poi ci definiamo così, io vi deprimo e lei vi risolleva. E non è vero, siamo due, non ce la facciamo nessuno dei due. Malinconici cronici. Ma il tempo però non aiuta. Sì, buttiamola a parlare del tempo e delle stagioni. E non ci siamo allenati oggi. Basta con questo tormentone. No, vabbè, però funziona, cioè questo è l'effetto del non produrre endorfine, un po' di tristezza. Va bene. Un po' di saudagi. Però ci impegniamo comunque tanto. E ora vi facciamo ascoltare un altro pezzo tratto da quegli anni, sono i Sons of Slam, il pezzo si intitola Right On, speriamo che stavolta ci si faccia farlo partire al volo, altrimenti dichiariamo disastro tecnico e pazienza. Inconveniente tecnico e l'altro, avete sentito il pezzo, si è fermato a metà perché sono un pasticcione, è così, funziona così. E l'ultima cosa che volevo raccontarvi, sempre sull'humus culturale del periodo, era questa cosa interessante. C'era questa lista di 5 punti che l'FBI nel 1967 aveva stilato come la propria politica sulla questione movimento di emancipazione e liberazione dei neri in America, in generale su tutte le organizzazioni che vi facevano parte, quindi anche su quello che poi diventerà il Black Power. Allora, secondo loro bisognava anzitutto impedire la coalizzazione delle diverse sigle, cioè il principio divide et impera. Bisognava impedire che si formassero dei leader che in qualche modo potessero incanalare e aiutare la protesta. Da qui, ad esempio, l'omicidio di Malcolm X, poi l'omicidio di Martin Luther King, poi tutti i vari leader delle più rappresentativi delle Black Panther, no? U.P. Newton, Bobby Seale e via così, e che hanno subito chi morti, chi incarcerazioni, insomma la brutale repressione di quel tipo di movimento. Poi bisognava impedire la violenza strutturata e organizzata, in qualche modo i riot avevano comunque spaventato tantissimo il governo americano. E l'altra cosa da fare era impedire la legittimità, che i leader di quei movimenti fossero considerati in qualche modo rispettabili, cioè nel senso bisognava fare in modo che quello che dicessero comunque non assumesse mai un senso razionale, non doveva arrivare a come una giusta protesta, ecco. E l'ultima era l'impedire l'organizzazione di massa. Cioè, in realtà sono 5 punti strettamente collegati che però rendono bene il periodo, le difficoltà che si trovavano ad affrontare, e da qui si capisce anche perché poi il gesto del 1968 era in qualche modo un tentativo di uscire da questa spirale azione repressione in cui l'FBI, in generale il governo americano, la CIA eccetera, cercavano di spingere il movimento, cioè questa lista di punti del 1967, quindi si capisce bene che erano quelle le politiche in atto. E quindi ora, per rimanere a tema, vorrei farvi sentire, sempre se ci si riesce, perché stasera è tutto così, se ci si riesce, un pezzo che si intitola I Spy for the FBI di Jamo Thomas. I got the fire. questo era I Spy for the FBI di Giamo Thomas, un pezzo a tema. E ora io ho finito, adesso ho finito di tediarvi sul 1960, 17 ottobre del 1968, e andiamo con una cosa, sempre se ci si riesce, più leggera, che è la nostra playlist for runners. Però io questa sera sarò fedele alla mia linea che non si corre con la musica, quindi non vi faccio sentire, non vi consiglio nessun pezzo. Questa sera soltanto la Gine, che invece è la fautrice della corsa con cuffiette, si prodigherà nel allietare le vostre corse con la sua musica. Prego Gine. Eccomi. Oggi non ha... Allora, partiamo con un pezzo che non è strettamente pensato per andare a correre, ma secondo me va bene lo stesso. Io vorrei dedicare questo pezzo a Ida e Ilenia, con le quali abbiamo avuto un simpatico scambio sulle rispettive esperienze nel mondo della pallavolo, e ci siamo scoperte tutte e tre delle pallavoliste mancate, nonché delle panchinare pazzesche e convinte e recidive. E quindi a loro dedico un pezzo di Le Tigre, I'm So Excited. È un pezzo, le Tigre sono un gruppo punk statunitense che nasce all'interno del movimento Gino del movimento non fatto niente femminista LGBT, e con, se non ricordo male, la cantante che proviene dalle Bikini Kill. Sì, è vero, è tutto vero, era la cantante delle Bikini Kill, ha fatto poi Le Tigre, che era un progetto completamente diverso. Ecco, e musicalmente sì, le Bikini Kill molto punk, e mentre Le Tigre più electro, dice la definizione su precisa, io non... Electroclash, va ecco. Bene, questa non ho mai capito che vuol dire electroclash, però è bene. È una canzone che io ho pensato per riscaldamento, quello fatto con gli scaldamuscoli un po' anni 80 alla Jane Fonda. Che bello. Ecco a voi. al minuto 3:50 abbiamo deciso che va bene così, anche sfruttando un naturale fade out della musica. In realtà il pezzo qua su no, c'è scritto che dura 7:04. Ma a me mi sembra impossibile. Secondo me io credo di perché ti piace talmente tanto che l'hai luppato. C'è qualcosa che non so cosa succede esattamente, ma non è la prima volta. Secondo me lo doppia. Bisogna stare attenti sui miei pezzi, come sui tuoi, che non partono, i miei partono due volte invece. Vabbè, comunque era un bellissimo pezzo, possiamo ascoltarlo anche 6, 7, 8, 9 volte, non è che ci frega, tanto c'è tempo. Sì, facciamo una bobina di Radio Wombat dove c'è solo questo pezzo. E abbiamo finito, abbiamo deciso che questa era anche la nostra chiusura saltellante. E quindi nulla, vi salutiamo e ufficializziamo, visto che siamo due ritardatari cronici, che inizieremo d'ora in poi alle 18:15. Cambieremo anche gli orari sul sito, abbiamo deciso che dopo la terza volta in cui non riusciamo a iniziare mai alle 5:30 ci rassegniamo e slittiamo in avanti, tanto a voi che vi frega è uguale, cioè non vi cambia niente, è solo che noi ci sentiamo poi meglio con noi stessi perché siamo così all'altezza delle nostre aspettative, se no... E delle vostre? No, delle loro non ce ne frega niente. No, io sono stata radar guida per i ritardi. Da me? Di trasmissione, no, non da te, dai nostri ascoltatori, da quei pochi ascoltatori che abbiamo. Se siete dei noiosi perfettini, ecco. E quindi niente, vi salutiamo, ciao, vi abbandoniamo alla bobina. A domenica prossima. Ancora due secondi. Cosa devo fare? Cosa devi fare? Devi stoppare la trasmissione, stiamo finendo. No, no, un po' più là, in diretta, ora insegnerò alla Gina a stoppare la trasmissione. C'è una cosa che ho scritto stop, full stop. Dai, una X, cioè è una cosa fatta... No! Dai, lì, sulla scrivania, c'ha tante icone, la scrivania ha tantissime icone, ce n'è una in particolare con una X grossa rossa.